alle 10, c'è qualcuno? Ciao Roberto. Ciao giù, e beh, tutto a posto. Ok. Stavo aspettando che qualcuno entrasse. Ah, non c'è nessuno, solo? Sì, no, non ho sentito nessuno. Io ho acceso un quarto d'ora fa, ero in ascolto, aspettando che qualcuno entrasse. No, io ho finito di lavorare, questi 10 minuti. Per scaricarmi un pochettino, avendo seduto la lì, poi oggi ero tutto il giorno da solo perché mio fratello è uscito, era a Cagliari, tutta la lì, e per cui oggi era il lunedì, poi da noi è critica, c'è tutta la gente, viene tutto il lavoro. Beh certo, di solito è lunedì, infatti, c'è sempre un affollamento maggiore rispetto agli altri giorni, perché la gente si prepara, dice vado lunedì, così magari se devo fare un lavoro me la preparo la settimana. Poi io lavoro, me lo organizzo sempre per prenderlo il lunedì e consegnarlo al fine settimana. Certamente sì, beh certo, perché ci vuole il tempo suo per fare il lavoro, ci mancherebbe, anche perché non è l'unico che arriva il lunedì, perché ce ne sono altri della settimana prima, magari dal sabato, dal venerdì, eccetera, eccetera. Certo. Ok, va bene, la radio sta andando bene, no? Non mi dici niente, vuol dire che va bene. No, ti ascolto perfettamente. Il segnale sei quasi 9 più 20, un po' iutrino a 9 più 20. Ok, ho capito. Vabbè, dai. Ascolta, facciamo solo una prova. Ti lascio solo la portante e aumento un attimino e poi abbasso di nuovo a 10, così come adesso in questo momento. Ok, ti provo un attimino la portante. Guarda lo smettere o... Allora, sei passato da quasi 9.20 a 9.25, a quasi 9.25, ed è tanto. Beh, sì, aspetta che lo rimetto come prima. Ecco qua. Così come era prima, dai. Va bene così. Allora già funziona, dai. No, non abbiamo ancora fatto la prova. Me la posso mettere la portante? Cos'è? Me la posso mettere la portante? Sì, mettila, non disturbare però. Ciao Gianfra. Ho visto che non c'è, quindi ho detto mi sto preoccupando. Giulio, che dici? La metto io la portante, se no poi ci annoiamo. Fai così Gianfra, dai, intanto ormai è di moda, per cui problemi non ce ne sono. Anzi no, diciamo che siamo già abituati, perciò non ci fa effetto più di tanto. Ma in questi giorni sei fatto vivo, no? Oppure è sceso qualcosa? Ma non so cosa dici, perché io non ho... Sì, ieri c'era qualcosina così, ma io non ero per questa, per cui qualcun altro anzi gli ha fatto osservazione. Ha detto, ma stai mettendo la portante che non c'è nessuno. Così gli è stato detto. Poi non lo so cosa vuoi che ti dica. Comunque la potrebbe anche mettere quando c'è solo QRM, giusto per dire che c'è. Poveri, no? Ciao Roberto, ciao Giulio. Anch'io sono da molto che non entro, proprio perché c'erano, diciamo, parolacce, si è di colpo imbastardita. Stava andando così bene. Purtroppo i simpatici ci sono sempre, devono per forza mettersi in mezzo, in evidenza. Purtroppo sembra che sia così. Pazienza. Giulio, cosa mi racconti? Beato chi ti sente. In questi giorni mi sono svagato in un altro modo. Ho fatto ascolto ieri, anche se la radio era sempre accesa, perché la sera la accendo sempre. Anche se io non ci sono davanti alla radio, però la lascio 2-3 ore, alle volte anche di più, accesa, così, alle volte anche la mattina, la lascio accesa, ma abbasso il volume e io magari faccio altro, oppure se ho da fare come stamattina, ad esempio, sono uscito, per cui la radio era sempre accesa e non c'era problema. Sono rientrato allora il pranzo, l'ho spenta, se l'ho riaccesa un quarto d'ora fa. Ok, anche stamattina non c'ero, quindi ero fuori, però non sto neanche accendendo la verità, cioè faccio ascolto sempre però da altre altre parti, perché no, a volte non fa, eh. Ho provato anche la notte, la notte è peggio che mai, mamma mia. Quindi meglio altre cose, ecco. Tutto lì, vabbè, e tu che combini? No, niente di particolare. Ieri abbiamo festeggiato il compleanno di mia figlia. Ieri c'era l'assembramento, ha detto mi ce n'è qualcuno che metteva la contravenzione pure, eravamo dentro casa, vabbè, non eravamo fuori. Però Mari, se trovi l'imbecille ti può dire qualcosa. Speriamo che finisca subito questa, secondo me, questa come si chiama? Questa patologia generale, dai, non voglio dire altro, perché non se ne può più, non vediamo l'ora. C'è da dire, fortunatamente per un verso, perché sennò sarebbe stato ancora peggio, le giornate non sono ancora quelle calde e belle da andartene al mare, sennò ce ne avremmo mangiato le mani pure. Adesso speriamo di inizi quanto prima, non dico l'estate, ma almeno la bella primavera, che si sta bene su 25-26 gradi, speriamo bene. Ok, e tu Gianfra, novità? No, nessuna, a parte una montagna di seccature per di lavoro, tante chiamate, sono tutti ancora bloccati, quindi bisogna risolvere sempre. Il che volevo dire, guarda che non è colpa comunque né dei vigili né dei carabinieri eccetera, perché se lo sai, no, loro li mandano un posto sotto, perché magari ha chiamato un cittadino, ha chiamato un... E poi spesso, se tu guardi bene, a volte ricompare una pattuglia che è del comandante o del vicecomandante, comunque un superiore che controlla se effettivamente stanno facendo quelle cose, capito? Anche loro a loro volta sono controllati in mille modi. Quindi non si tratta di dire di prendersela con loro, perché il lavoro loro è quello, di sanzionare le persone quando sbagliano e così via. Non è, se fosse stato tu al loro posto avresti fatto probabilmente lo stesso. Perché così purtroppo, certi va bene, sono esagerati, si attaccano nel vero senso della parola, però la maggior parte io non ho mai avuto risposta. Comunque, purtroppo il lavoro è così, se te lo danno fare lo devi. Riprendi Giulio. Ok, già sarebbe certo. Chi è predisposto per fare quel servizio lo deve eseguire, perché è giusto anche che sia così. Poi, ovviamente, ma io sono sempre dell'idea che siamo noi un po' persone, generalizzando, che non siamo capaci di fare un po' il sacrificio per cercare di abbattere completamente questo discorso Covid. Oggi comunque sembra in Sardegna 23 contagi e 4 decessi, sembra che stia abbassando, in ogni modo speriamo bene, stiamo andando incontro al caldo, il caldo sembra nemico del Covid, per cui come l'anno scorso, speriamo che poi magari nel periodo delle ferie, giugno e oltre, non aumenti come è successo l'anno scorso, speriamo bene. Vai Roberto. No, Gianfra, la osservazione non è la rivolta alle forze dell'ordine, ripeto, io ho massima stima e rispetto, ho parenti, amici, assolutamente lungi da me dire qualcosa da loro, perché purtroppo loro sono comandati, purtroppo chi li comanda è che sono persone che non ci stanno anche a fare niente di lì. Io ho raccontato una scena a un amico mio, questo è l'aeroporto, quelli che fanno i controlli, c'era un altro giorno, c'era perché fa i turni, e mi stava raccontando una scena, siccome per uscire fuori deve avere dovevi avere, adesso non so se ci vuole, l'autogiustificazione, questa roba qua. Questo se ne è avvicinato, mi faccia vedere il pass, diciamo, la certificazione. Io non sono tenuto a farlo perché io sono un senatore del Parlamento italiano e viaggio tutte le settimane, due o tre volte alla settimana, non sono tenuto a farlo, non devo stare qua a perdere tempo ogni volta. Ma non mi scusi, se l'ha girato e ha detto, dammi questa bambina che c'è qua, con i genitori, questi due stanno andando a Gatolini a operare, c'ha la figlia, c'ha una malattia gravissima e gli abbiamo fatto compilare le cose e lei non si va, l'ha fatto nero, non sapeva da che parte uscire, alla fine l'ha compilato il coso, per dirti, però noi ci troviamo in fronte a certa gente, a cose, e purtroppo cacchio, siamo ordinari, chi che era un parlamentare, secondo lui non doveva fare niente. Anche quello succede, però vedi, io sono dal parere che non bisogna prendersela con lui, ma di quelli che l'hanno fottato, che ce l'hanno mandato lì, e torniamo sempre a bomba. Capito? Ti volevo dire una cosa, porca zio, sto diventando rimbambito. Giulio, tu sei più giovane di me, mi sa. Io mi dimentico le cose. La vecchiaia è carrogna, Gianfra. Natalia, ma guarda, è talmente lo stress di fare tante cose contemporaneamente che veramente se non taglio finisco male. Salutoni a tutti comunque, là vi sto ascoltando. Perché devo mangiare a quest'ora, là. Ma c'è la giostra, Marta l'ha detto in Natalia. Scommetto che si sente il televisore, devo prenderlo e buttarlo dalla finestra. Maria Matta, quando ci sono giro, nuova cosa. Comunque, cambiando discorso, Gianfra, stasera c'è quel film che avevamo parlato tempo fa, U571, quello della macchina Enigma, è un bel film per decifrare che hanno rubato quel gruppo di coso, di sommergibilisti, hanno preso un moto tedesco, è un bel film, non so se l'avete visto, chi lo vuol vedere è interessante. Sì, ma l'ho visto un paio di volte, però proprio quello non è che mi sia molto piaciuto, nel senso che preferivo quello più realistico di Petersen, Robot 57, che ha fatto veramente bene, molto molto realistico, che erano nella base di francese della Rochelle. Quello in terra, dove stavano cercando di decifrarlo con quel computer a valvole, eccetera, eccetera, quello che dice? No, quello era un altro. No, io parlavo proprio del... non di quello di Enigma, quello lì era, c'avevano anche loro Enigma, ovviamente si è vista tante volte, ma parlavo del film in generale, capito? Che poi a noi ce l'hanno spezzettato anche, era molto drammatico, molto, era Obot 56, una cosa del genere, quello era grosso, però c'aveva anche un regista, Petersen, che insomma era di alto livello, ecco. Quello là era troppo sull'americano, capito? Tra l'altro era anche sbagliato, avevo letto credo qualcosa, perché gli americani si mettono sempre in mezzo, no? Fanno il film a cui partecipano loro, però in realtà mi pare che quella macchina l'abbiamo recuperata agli inglesi, ecco. Anche io mi ricordo così. Avanti Giulio. Ok, intanto saluto Natalino, ciao Natalino, ben arrivato su questo canale. No, io i film che preferisco sono i film western, quelli davanti a tutti gli altri. Chissà perché, comunque mi piacciono quelli. E anche se magari sono visti e rivisti, tutte le volte che ci sono i grandi film western, io li guardo sempre, non li perdo, insomma. Per cui va bene così. Poi gli altri generi di film, naturalmente li guardo, qualche giallo, qualche criminazione riguardo lo stesso, però preferisco sempre i film western, sono film più rilassanti, e poi mi piace anche la sceneggiatura di quel tipo di film, perché vedi delle cose un po', diciamo, superlative, se vogliamo, per conto mio, poi io lo vedo così. Vediamo un po', faccio entrare di nuovo Natalino, avanti Natalino, dopo mangi, dai. E ho quasi finito. Giulio! Sì, dimmi, Robert. Allora, oggi c'è il film che piace a te, sta guardando nei tuoi programmi, di John Wayne, Il fiume rosso, un bel film, del 1948, forse è ancora in bianco e nero. Sì, Robert, lo so, perché ho visto la pubblicità alla televisione, già da un paio di giorni, e anche oggi l'ho visto la pubblicità stamattina, alla televisione. Da tenere in considerazione che io ho anche tutta una serie di film, tutti di John Wayne, saranno almeno una cinquantina di film più o meno, o le cassette, non le cassette, i CD che le avevo fatte praticamente in edicola tutte le volte che usciva, ogni 15 giorni, se ricordo bene, c'era un film di John Wayne, e ce li ho tutti praticamente, o quasi tutti. quelli che ha fatto, dai. No, è un attore molto bravo, è stato per conto mio, e mi piace molto come attore. Bene, bene, avanti Gioffra. Beh, sì, Luca è un classico, è un attore, diciamo, tutto particolare, che ha fatto storia, spesso retorico, però insomma sono sempre belli i film nel campo western, insieme a Henry Fonda non c'era nessuno. Te lo ricordi Robby come camminava? Cioè Henry Fonda lo riconoscevi subito da come camminava, quel passo da pistolero. Sì, anche John Wayne lo stesso, c'era qualcosa lì, forse perché era molto alto, John Wayne c'era stato 1,90 m. Comunque, cambiando discorso, poco fa c'era qualcuno che stava mettendo portantina, speriamo si sia stufato quando stava parlando Giulio, non so se l'hai sentito tu Gianfranco. Ma no, guarda, perché siccome era in ascolto, c'ho anche lo squadro abbastanza alto, intorno all'S5-S6, quindi era veramente bassa. Lo sai che John Wayne odiava i cavalli? E infatti quando è a cavallo i piedi un altro po' le toccano terra, povero cavallo. Io penso che anche i cavalli odiassero a lui. Ma poi nei film White, io da bambino ho fissato il film di John Ford con John Wayne, proprio non volevo l'ora quando c'era, e poi gli davano da piccolino solo il lunedì il film, non come stava tutte le ore del giorno della notte, c'era lunedì il film a Rai 1 e davano molte volte questi film di White, di John Wayne come attore principale e John Ford come regista, ma erano la morte sua. Però i cavalli, io quando avevo quei cavalli, poi vedevo i cavalli qua dalla cavalcata, ogni cavallo, questi che abbiamo noi, altri 2 metri, e dico, ma come cavolo fanno quelli a saltarci sopra? Me lo sono chiesto anch'io. Giulio, ne sai qualcosa? No, evidentemente hanno le molle sotto i piedi e saltano, perché sono degli acrobati quelli. Poi bisogna vedere quanto c'è di vero quando fanno questi salti così. Sì, no, adesso stavo pensando, la settimana scorsa c'era uno che aveva quella trasmissione che danno su Canale 26, il banco dei pegni, una cosa del genere, no? Che ha portato proprio la sella che usava John Wayne nei suoi film per venderla appunto al banco, e adesso non mi ricordo se il banco l'aveva acquistato per poi rivendere, naturalmente loro lo fanno quel trattativa, e non so nemmeno quanto sia stata valutata, ma suppongo un bel po' di soldi. Sì, poi c'è anche da chiedersi una cosa, quando facciamo quei salti, tipo per scappare, no? Saltavano proprio sul cavallo, insomma la strada non è così morbida come sembrerebbe, figurati se sbagliavano un po' la posizione, cambiavano subito voce. Sì, ma anche quei film qui così, Trinità, con le Terrenzi e cose, li vedi saltare da un pagliaio, da una stalla, roba di 5-6 metri, tac, sopra il cavallo, ogni 2 ore. E ogni Ibrahima l'ha fatta del cavallo. Ah, secondo me sono di razze più basse, più piccolette rispetto alle nostre, noi abbiamo quei cavalli che sono enormi, cose, c'è da dire che noi sardi di media siamo piccoletti rispetto agli americani, mediamente, ma cacchio, quando io vedo un cavallo che sono di media al garrese, quanto sarà, 1,60 m, 1,65 m, minimo, come cacchio fai tu a saltare in velocità, a fare un brinco e a brincare sopra il cavallo? Sì, l'abbiamo sentito. Poi Giulio, quando facciamo i duelli, comunque, solo in alcuni film si vede che sparano correttamente, in altri invece sparano colpi a ripetizione, che con le armi la Colt originale non sparava, perché per sparare, per armare diciamo il proiettile praticamente, dovevi per forza abbassare con dito lo sgrilletto, tant'è vero che in certi film si vede sparano a 2 mani, con la sinistra alza il grilletto, cioè alza il cane, e con la destra premi il grilletto. Beh, loro chiaramente fanno le riprese, poi fanno il montaggio di tutto, e alle volte diciamo che non sono perfettamente sincronizzati i vari rumori, le varie sparate che fanno con le pistole, eccetera. Ci possono essere anche delle differenze, cioè uno che sta proprio attento, attento, se ne può anche rendere conto. Ma anche lo stesso camminare, anche il galoppo dei cavalli, come lo fanno loro, non è certamente così. Esatto, il galoppo del cavallo, il rumore che fanno con gli zuccoli quando stanno galoppando. Anche perché galoppano nella terra battuta, per cui è tutto una tonalità tutta differente. Però si sa, il montaggio dei film viene fatta in questa maniera perché deve sembrare realtà, ma poi in realtà naturalmente lo sappiamo benissimo, non lo è, tutto lì già fa. Sono rientrato comunque. È ripreso. Sì, ah vabbè, io a me questi film, quelli di John Ford, se li fai adesso un film del genere, quelli di John Wayne ti prendono per la tita, gli indiani li hanno sempre passati, noi avevamo un'immagine dell'indiano sempre cattivo, che ammazzavano la gente, rapivano la gente, invece non è vero, tutto il macello li hanno fatti i conquistatori, perché gli indiani erano nativi del posto, dell'America, poi sono arrivati tutti quanti dall'Europa e hanno decimato e hanno distrutto tutta la cultura pelle rossa. Infatti Atalino c'ha qualche parente indiano, non è così Natalino? E allora, non lo sapevi, pure tu lo sai. Eia. Cos'è c'è andato, microfono? No, sempre il solito è. Aspetta questo rumore cicchi cicchi. Cicchi cicchi. Vai Giaffra. Sì, probabilmente è Toro Seduto, parente di Natalino. Sì, ne hanno fatto di tutti i colori, guarda, ci sono storie allucinanti, resoconti dell'epoca, cioè bambini infilzati con le spade, guarda, cose micidiali, molto, molto trucide, e quelli là, diciamo, se te la prendevi te la potevi prendere con i guerrieri, ma non certo con le creature, con le donne, così via. E ognuno tira sempre il mulino, cioè l'acqua al suo mulino, no? Come si dice. E invece una storia vera, molte volte vedi sbarchi in Normandia, eccetera, e c'è una storia in cui un ragazzo, un giovane soldato, lo hanno messo lì con una mitragliatrice di quella MG, no? La MG1, quella proprio del 1942, eccetera, a contrastare lo sbarco. E questo ragazzo lì, in cui il compito era di fermare più soldati possibili, mentre gli altri, i suoi compagni, si ritiravano perché oramai bombardamenti erano tali, che era micidiale la questione, no? Ebbene, questo ragazzo è rimasto di lì, infatti se l'ha cavata, e poi lo ha raccontato lui quando era anziano. Ha bloccato praticamente un'intera compagnia facendola fuori, cioè stiamo parlando di migliaia di uomini, e questa maledetta mitragliatrice non si è mai inciampata. Quindi proprio delle storie che vanno anche oltre quello che potrebbe essere un film. Neanche lui si aspettava di poter far fuori così tanti altri ragazzi, perché erano tutti ragazzi, in una maniera così micidiale. È tutto un merito di questa terribile arma. E purtroppo la guerra viene ammazzato tutti. Anzi, c'è da dire, gli americani, considerando, sono quelli che ne hanno preso di meno di vittime. Dillo ai russi a vedere quanti ne hanno ammazzato. Sì, ma i russi, se non andavano avanti, si facevano pure i russi stessi. C'era una sorta che chi tornava indietro veniva mitragliato, un po' come si faceva nella prima guerra mondiale. Riprendi Giulio. Ok, beh certo. Comunque adesso mi è venuto in mente di quando ero ragazzino che si andava, voi forse non avete mai conosciuto quello locale lì, di Cappuccini, non mi ricordo come si chiama, forse per vedere, boh, non mi ricordo. E lì non facevano altro che proiettare film western. E tutta la domenica, sai, allora c'erano i banchi tipo bietole, come sedie. E dunque ci andavano tutti i ragazzini, ci andavano a vedere quel genere di film. Succedeva un casino del diavolo, se vedete tu di banche volando, perché tutte le volte che c'erano le sparatorie che facevano e nei film western, volavano anche le banche, volavano, certo, essendo ragazzini, sai, non è che tu riuscivi a domesticarli tanto facilmente. Poi c'era quella, la maschera cosiddetta del cinema, con lui perdeva la testa perché a un certo momento si incavolava anche con le ragazze, però non c'era niente da fare. Quando tu hai una sala piena di ragazzini, tutti quanti facendo buriana, e come fai a farli stare zitti? Non ci riesci? Poi, sai, vabbè, tu non li hai mai conosciuto quel locale come cinema? Dove era? Le ricordo. Ma vedete, lì a Cappuccini, lì fuori con la chiesa. No, cinema li hanno conosciuto anche la maggior parte, ma perché non ti ricordi quando c'era il periodo dei ragazzi dello Smeraldo, dei film di karate, Kata, Bruce Lee, che ci trovano tutti mesi e mesi mettendo film di karate, c'era la maniera della forza. C'è stato un aumento delle iscrizioni al coso, alle palestre di arti marziali nel periodo, tutti perché davano tutti questi film di Bruce Lee, che poi se li guardi adesso ti metti a ridere, perché non erano credibili per niente. Sì, anche quel film che guardo. Non lo senti il disturbo per il Giafra? Disturba anche a te, non ti copre, però ti disturba. A Giulio va niente. Io non riesco a sentirlo a Giulio. Allo passo io. Giulio, ti stanno bombardando, nel senso non ti riesco a fare perché tu ti schiaccia, perché tu sei quasi 9.20, questo è 9.25, Natalino un po' adesso è riuscito a passarlo, ma anche a Gianfranco disturba, che Gianfranco è quasi 9.30. Sì, vabbè, facciamo giocare, cosa più se mi disturba a me questo disturbatore, non lo so che gusto ci prendono. Ce l'ha con Giulio Pru. Giù, come a parli tu appena attacchi, tu Natalino non riesco a sentirlo sotto, però è fastidioso. Speriamo bene, dai, comunque Travico, se per cortesia ci lascia parlare, ci fa un grande piacere. Vai Gianfra. No, aspettavo illusoriamente che prendesse lui, ma dici sì, va bene. Disturba anche a te Gianfra, eppure tu sei forte qua, arrivi 9.25 e ti disturba tantissimo. Però io sono con un fattino, piccolino. Quanto ti arriva a voi questo segnale? Ma non ci ho messo la portante. Giulio, quanto ti arriva a te? Come ti è di modulazione? No, te proprio ti schiaccia giù, non c'è confronto. A Gianfranco gli dà fastidio, però un po' lo sento. Qua arriva quasi 9 più 30. Sì, lo so, perché è un di colorazione, certo. Non è quello che gli ha detto, ma... Qua a fondo scala arriva. A fondo scala addirittura? Ehi, qua sì. Quindi passa anche a me, mi distrugge anche a me? No, a te no. Perché non lavo la zona, dai. Guarda, adesso sei salito Gianfra 9.35 e ti dà fastidio anche a te. Figurati, ce l'hai vicino, anche se è attaccato un lineare, comunque si vede che è attaccato un lineare. Quindi è così. No, già 4 watt, vedo che comunque riesco a passare. Ma non voglio, guarda, non voglio attaccare l'altro, con l'altro non ci avrei problemi, però non mi pare cambiare apparato per un decifre. No, no, di radio già lo passi, però c'è questo tun tun tun tun, questo martelletto sotto che si sente. E cacchio, eppure è forte, qua arriva forte, ma come fa a arrivare così forte a me e così forte a Natalino? E questa è la cosa strana. Perché in zona rossa. In zona rossa. Certo che sì. Adesso si è abbassato un po' di segnale. Te l'ho detto, quando riesco a lineare, evidentemente c'è un anche stazionario. No, voglio capire da che zona bene, perché a Giulio gli arriva 9.10, a Natalino 9.30, 9.40, non lo so, a me mi arriva sui 9.25, quasi 9.30, voglio capire da che zona, anche quando ti arriva la portante, Gianfra? Diciamo molto più bassa del segnale che arriva a te, però guarda, la zona è sulla... vabbè, non la voglio dire, da... c'è gente che le arriva a 9.60, fate il conto di quanto è vicina, però non lo diciamo perché tanto, per evitare incidenti, dai. Non ho capito, c'è gente che le arriva a 9.60? Certo che le arriva a 9.60, praticamente ce l'ha sotto casa, o vicino a casa. Appunto, ma qua non è così forte, 9.60 a me mi arrivavano solo Claudio e Antonello, Pompugno e buco. Ma non è che non sia in macchina che si muove questo? No, attacca e stacca a lineare e poi ci affido un'antenna probabilmente. È per quello, ma lui si crede furbo, ma è tonto granappa, perché l'altra volta in banda laterale hanno ascoltato anche alcune cose, poi si sposta di canale pensando di fare il furbo andando a provare su un altro canale per poi tornare qua, se sta funzionando il lineare, guarda, è un illuso e basta. Ma è in periferia, non è dentro città? No, comment. Qua adesso da fastidio questo fischio. No, non c'è il fischio, non so, ma per tanto è senza niente. Sembra la nostra, la telecamera della Rai quando c'era il monoscopio con la nostra. È un miserabile, basta. Non ti ha fatto parlare, chi è che voleva entrare? È un miserabile. Giulio, diciamo secondo il protocollo, ok? Sì, ti sento, però chiaramente premo ma non aggancia. Sono rientrato, già fra io lo passo il disturbo. Sì, alla grande. Ma te, anche se tu sei 9.35 Gianfra, sotto ti disturba. C'è un rumore fastidiosissimo, questo fischio ti entra nelle orecchie e ti attuntuneggia. Ma Giulio c'è ancora, Giulio? Ma sono tornato Giulio, Gianfra? No, sono altre frequenze. Non lo so, io sinceramente ogni tanto rimango stupito di queste cose qua, cioè forse si potevano fare tanti anni fa, quando magari qualcuno c'erano le ripicche, ma adesso siamo persone tranquille, almeno da parte mia io non credo di rompere la scatola a nessuno, idem tu e Giulio, non capisco che cosa se ne abbia da fare queste cose. No. Ti sto ascoltando, meglio lasciar perdere, ciao. Una domanda, Clara, ciao, ben sentito. La zona tua quanto arriva, per curiosità? Copre sia Giulio che a Gianfranco, e a te no. Addirittura copre anche a Gianfranco? Sì, è più forte, te l'ho già detto. Quindi sta spingendo parecchio. Tutti copre, tranne che a te. Ok, dai, divertitevi, ciao. E allora mi dispiace che purtroppo quando succedono queste cose, già c'è, siamo quattro gatti, poi c'è qualcuno che non ha voglia di entrare e centinaia passa ancora di più la voglia. Va bene, dai, passa quando vuoi, Cla, e poi se vuoi entrare entra, già lo sai, non vi so problemi. Già Fra, cosa sto utilizzando adesso tu per curiosità? Non ho capito, hai detto cosa sto utilizzando? No, non ho capito perché qua passa anche Claudio. Ma forse ancora in quelle condizioni. Non so se fosse Claudio Sparviero quando è entrato, perché avevo il filtro stretto e lo sentivo, non ho capito se era lui. Sì, sì, era Claudio. No, no, ma durante Claudio, quando parlava Claudio non è stato sovramodulato, solo quando parlava Giulio e quando parlavi tu disturbava. A Giulio proprio lo schiaccia completamente, a te ti dà un po' di fastidio questo fischio che ti entra nelle orecchie, mamma mia, mi faceva pure male. E guardaci voi, se è così, cosa vuoi fare? Questo sta facendo un'altra radio, non è quella di prima? No, no, è sempre la stessa, solo che sto muovendo il microfono perché mi è capitato una cosa che non doveva capitare, la sto rimettendo a posto. Con Giulio poi non è capito. Gianfra, una cosa. Gianfra? Sì. Muta un attimino in FM, voglio togliermi un dubbio. Ok. Santiago in AM, già fra 1, 2, 3 prova radio. 9.35. C'ho lo stesso segnale in AM che in FM. Ora, attenzione, canale 10, prova radio. Perché sta uscendo male, già fra? Ancora una portante esiste. È un bel forte pure, Luca. Quando ti arriva a te? Fa ridere, cazzo. Quando ti arriva, Luca? Forse anche qua. A me arriva quasi 9:30, schiaccia a tutti, anche a Claudio ha disturbato. Vabbè, Claudio è 3 watt, sta uscendo. Sono l'unico che passa qua, Gianfranco, e lo disturba pure. Non comment. No, vabbè, io spero che si stanchi, cosa vuoi ti dica? Sinceramente io rimango senza parole, perché posso capire se uno magari si comporta male, l'ha fatto lui, disturba ad altri, ma qua finalmente, diciamo, per quanto ne ho sentito io siamo tutti abbastanza tranquilli, non succedono queste cose, però vuol dire che qualcuno ha altri divertimenti da per fare qualcosa. Vabbè, se il suo divertimento è questo, buon per lui. Tu non sei a casa tua naturalmente, Luca. No, no. Infatti il segnale è un po' più basso rispetto al solito. C'è Gianfranco qua, c'era Giulio, mi dispiace se si è allontanato, c'era Natalino, è entrato un secondino Claudio, lo stesso anche lui quando sente queste cose, dà fastidio a tutti. Purtroppo dà fastidio a un sacco di gente perché quasi tutti vengono scavalcati da questo segnale. Aspetta, tu credo che già verrà beccato, prima o poi lo beccano, tranquillo. Noi stiamo parlando, comunque ci sono almeno 5-6 persone. Ah, Oh, passa su quella frequenza, Giafra. Giulio, mi ha detto? Su quella frequenza, quello imbecille non ce l'ha. Sì, ci sono già lì, ci sono già, vi sto ascoltando. Ok, d'accordo, Giù, rimani qua, non ti preoccupare, Adesso in questi giorni mi sei di nuovo riabbassato il QRM, Gianfra. Cacca, sì, come normalmente, ma l'altro giorno era tutto 8, sempre 8. Sì, infatti. Adesso è calato parecchio. Speriamo che domani non faccia brutto piuttosto. No, non piove, non ti preoccupare, ho visto le previsioni, non piove. Non so se fino a sabato, non le ho guardate, ma in questi giorni vicini non piove. Ok. Speriamo bene. Comunque Giulio c'è sempre, però è sull'altro. Su altra banda. Quindi c'è tanta gente, quello starà girando tutti i canali, ma tanto non può fare niente. Questa radio che stai utilizzando ha l'altoparlante esterno, Gianfra? Sia altoparlante esterno sia microtelefono, puoi scegliere. No, dico, così mi dai un controllo di radio, voglio capire la differenza tra uno e l'altro, se non ti crea problemi. Sì, comunque è esterno, puoi fare la prova. Allora, memorizza questa intensità di radio e le tonalità. Adesso tra un secondo cambio un'altra radio e mi dici cosa cambia da uno all'altro. Questo è, ripeto, canale 10 27 075, prova di modulazione. Sì, 935. Allora Gianfra, questa è la stessa distanza di prima, però con un'altra radio. Cosa noti di differenza? È più forte, è più rimbombante. Fammi vedere il segnale. Allora aspetta che abbasso appena il Mickey Gain, così me lo metto a livello dell'altra. 1, 2, 3, prova radio, adesso te lo sto abbassando un peluzzino. Guarda cosa noti di differenza. La radio è potente, però il segnale mi sembra che sia leggermente più basso, ma di poco. Più basso, allora mettiamolo uguale all'altro adesso, guarda un pochettino, adesso probabilmente è uguale, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 75. 9, 35. Quindi il segnale è uguale all'altro, la modulazione questa è più alta o più bassa rispetto a prima? Ecco, ha specificato, meno male. No, stavo ascoltando di là, io non c'entravo niente su quello che stavo dicendo. Dimmi un po', cosa noti di differenza di tonalità tra questa e quella di prima? Che è più rimbombante, tutto lì. Ma poi abbassata, è diventata più o meno simile, la tua voce non cambia più di tanto, ecco, perlomeno a questa distanza in AM. Ma sono troppo alto di radio, posso abbassare, tieni presente, aspetta, abbasso un filuzzino, guarda un pochettino cosa succede, 1, 2, 3, prova radio. No, scusa se rido, ma lo stanno facendo a fettine, ad affettato, a sottilette, insomma, in tutti i modi. Per quello che mi viene da ridere. Ma sono un'altra frequenza, state parlando. Sì. Ma speriamo che entri lì, perché di lì quasi istantaneamente sappiamo nome, cognome, data di nascita e tutto quanto. Ma non ce l'hai il coraggio di entrare lì, perché lì è bruciato, è come dare la carta d'identità. Ma perché, come si chiama? Entra sui punti o che cosa? No, non gli voglio dare indizi. Se no rompo le palle lì, già lo sanno tutti gli altri, comunque c'è Giulio, Marco, Natalino, è entrato Bulldozer, tutti quanti. Speriamo che queste osservazioni che state facendo li servano per calmarsi, cosa vuoi che ti dica? È inutile poi arrabbiarsi, io spero che metta un pochettino di giudizio e si stufi. E poi se vuole entrare e vuol parlare, ben accetto, basta, prendiamola così la teoria. Non mi hai confermato la modulazione, tu mi hai detto questa è rimbombante, cosa vuol dire rimbombante? C'è effetto camera o le tonalità sono troppo potenti? No, adesso che hai abbassato è più o meno come quella di prima, però ho un pelozzino più, ma proprio quasi nulla, diciamo, è un pochettino più bassa rispetto a prima, però va benissimo, sembrano identiche. Okay. Poi a quello, guarda, se poco lo trovano, lo gonfiano di brutto, lui non sa cosa sta rischiando. Questa è quella che avevo prima, Gianfra, dammi di nuovo una conferma, questa mi è meno rimbombante. Sì, mi sembra, guarda, praticamente la stessa, guarda, è praticamente la stessa. anche come intensità microfonica, perché sto cercando di farle uguali una con l'altra. Sì, da me oramai è livellata, capito? È la stessa di prima, tra poco non noto neanche differenze. Ma tu non puoi vederla, non c'è modo di vederla con la cascacca, la modulazione, se c'è differenza, se è più pulita, perché quella di prima era una radio un pochettino superiore, parliamo come pulizia di modulazione, puoi identificarla, c'è modo di vederla tu con l'analizzatore? Sì, io posso vedere tutti i picchi, quanto è la larghezza, quante cose, però adesso sto facendo tre cose contemporaneamente, cioè sto ascoltando l'altra radio, sto gestendo due computer perché uno mi sta dando dei dati e l'altro invece è una specie di ricercatore, diciamola così. Quindi, mamma mia, ma sono sparati sull'altra, troppo forti di radio, cavolo. Allora, un'altra volta, con calma, magari ci facciamo delle prove, già fa, se non ti crea troppi problemi, così devo provare anche un altro microfono, quello della Dunisi, per equalizzarlo e renderlo uguale, simile almeno a questo che tu stai utilizzando, e poi mi farei dei confronti, mi dice, no, guarda, togli quello, fai quello, eccetera, eccetera. No, guarda, posso fare molto di più, tutte le mie radio c'hanno la registrazione. Io te la faccio e poi te la rimando sul sistema digitale, quindi tu la senti così come la sento io, né più né meno, senza problemi. Adesso ripeto, ho tutti e due i PC impegnati, la radio è impegnata, sì, basta cliccare un tasto e lei registra, però dovrei fare anche qua, poi collegarlo al computer per fartela riascoltare, quindi avendo tutti e due i PC occupati diventa una cosa un pochettino seccante. No, non ti preoccupare, facciamo un'altra volta con calma, ma in base alle tue disponibilità. No, volevo fare in modo io. Allora, queste due radio, quella di prima con questa, le abbiamo più o meno regolate come intensità microfonica, a livello di microfono e livello di uscita, più o meno mi ha detto il segnale era simile. E voglio fare la stessa cosa però utilizzando un altro microfono in modo che abbia la compatibilità, in modo in emergenza, se devo cambiare il microfono c'ho anche l'altro, in modo che siano molto simili come modulazione e non ci siano né esaltazioni né attenuazioni di frequenze quando parlo. Sì, poi dunque che ci capita la comparazione, ecco, io voglio essere neutrale a scanso di questo, ognuno giudica, come ha fatto anche con Claudio, la propria radio se va bene o meno, perché così non è più un mio giudizio, ma è un giudizio del proprietario della radio che si ascolta, ecco. Sì, no, assolutamente, il problema lo sai cos'è con questo cavolo di radio? Anche se ti usi un ricevitore, ho fatto la prova con un ricevitore, però cazzo c'è sempre il ronzio, perché sono talmente vicino, anche attenuando, abbassando la potenza a zero proprio, si sente un pochettino di ronzio e non riesci a sentirla come deve essere la modulazione pulita. Sì, assolutamente, io ho anche la possibilità di mandartela in diretta su un'altra frequenza, però poi non ti serve a niente, perché come fai a parlare e ascoltarsi pure, ci vuole una certa abilità, capito? Un conto è se fa un accordo con uno strumento musicale, un conto è autoascoltarsi in monitor, anche questo, premi un tasto c'è il monitor, però serve giusto per dirti se c'hai alternata o meno, o se la modulazione sta andando bene. Quindi anche se io te la rimando non risolveresti niente. No, sarebbe troppo complicata, perché ci vorrebbero 250 prove. Questa radio, quella grossa, ce l'ha il monitor, però non sono riuscito a capire il funzionamento, perché ho detto, qua metto posizione monitor e mi ascolto in cuffia, invece no, probabilmente bisogna utilizzare qualche altra uscita dietro posteriormente, parliamo della radio quella più grossa. Chiara? Sì, Giulio, dimmi. Ah, tu non mi hai detto niente come mi sento, non mi hai detto niente. Mi capisci il motivo per cui ti sto chiedendo questo? Ma se ti riferisci là siete tutti fortissimi, anche troppo, infatti poco fa ho abbassato il volume e quasi l'ho dovuto mettere a zero, perché è veramente forte, comunque è benissimo, proprio non è neanche minimamente paragonabile alle modulazioni no, anzi, non è minimamente paragonabile a qualunque modulazione puoi ascoltare qua in AM. Ok, sì, beh, è un nuovo barattino questo, l'Alan 44, Alan Midland 44, è nuovo questo, appena comprato, per cui sono contento che funziona bene, dai. Sì, va benissimo Giulio, va benissimo. Io purtroppo di là non ho potuto parlare perché ero anche qua, perché inizialmente me ne è uscito il microfono, diciamo, dai, era appoggiato, quindi mi ha fatto un pochettino di casino, tutto lì. Eravamo in 4-5, eravamo lì, dunque abbiamo chiacchierato lì, intanto lui quel canale non ce l'ha, problema, ok? Sì, ma lo stavo dicendo a Roberto, infatti, che qua c'è almeno 6, 7, 8 persone che stanno ascoltando, e quindi si stanno facendo un'idea molto chiara di chi è e di chi non è. Ti ho detto che c'è gente che sta arrivando 9.60, ho detto tutto. Quindi il fatto è che se lo trovano lo picchiamo, tutto lì, chiunque sia, voglio vedere cosa succede, è per quello che non voglio, io sono contrario un po' a queste cose, andare e mettere le mani addosso, è ben chiaro. Riprendi Roberto. No, date un mazzetto di fiori, buonasera a tutti, dai, sono arrivato, dai. Ci sentiamo dopo che io scendo a mangiare. No, secondo me Gianfra, io non voglio dire niente, secondo me è Antonio, lui cazzo lo fa apposta. Non mi so come uno capo un importante, io apro, saluto a tutti. Ciao, ben sentito, no, naturalmente già lo sai che sto scherzando, io mi auguro che non si arrivi a quel punto lì di usare le mani, sei intelligente, deve smetterla, e se proprio vuoi entrare entri, anche se poi sappiamo chi è o chi non è, entri e fermo finta di nuda, io la vedo così. E beh, fuggiti tutti. No, c'era uno parlando sotto. Chi c'è parlando sotto? Io non sento nessuno, e anche oggi sono col QRM abbastanza basso rispetto alla norma. Non sento qualche... Avanti se c'è qualcuno che può entrare. Oh, vabbè. Ok. Ma Giulio si è spostato di nuovo? No, era dall'altro canale, anche stavo parlando anche dall'altro canale. Sì, evidentemente c'è il silenzio di ricerca, cosiddetto. Ah, aspetta, avete parlato in due, giù, tu vedi che stai parlando. Sì, perché hai chiamato il mio nome, sono rientrato, ma scusa Gianfra. No, stavo parlando sull'altro canale anche, mi dicevi Roberto? Certo che ti ricevo, ma come, nell'altro canale non lo so dove vedi, qua su 10 ti ricevo benissimo. Vabbè, mi date la frequenza, non ti preoccupare, adesso non te la posso dare qua, credo mai già te la do tramite telefono. Non c'è problema, già lo sai il mio numero, quando vuoi, no, non c'è problema. Ok, c'è Antonio, è entrato un secondino, cos'è che sta andando a mangiare, non ho capito. Sì, Antonio fa sempre l'entrata così, arriva appena che arriva, va a cenare e dopo rientra, ma si tratta di 10 minuti di tempo per rientrare. Perché lui, il problema è Antonio, poi quando rientra lui devo andare io, perché vado a mangiare io. Lui purtroppo esce un po' più tardi di me dal lavoro. Ok, vai tu Gianfra, di nuovo. Buonasera. Sì, buonasera. Io non ho capito, poi Antonio ci dovrà spiegare una cosa, se a quello lì la bombola gliela tira sulle spalle piena oppure vuota. Io ho il dubbio che gliela tiri piena e anche aperta e che sia pronto col fiammifero pure. Avanti chi vuole far entrare. Ecco, ciao Gianfranco. Giulio è andato adesso, non mi arriva il nome.